4 mattino. Ciao, sono Luisa e sto andando a lavorare e lavoro in ospedale nel reparto dialisi e si va avanti. Buona giornata. Ciao Simone, tutto andrà bene, ma io voglio fare una domanda. Io faccio un lavoro a rischio, tutti i giorni sono in giro da Vicenza a Padova e faccio consegne al pane, ditte, fabbriche, ospizi, case di cura, eccetera. Ma perché non mi fermano e mi fanno il tampone? Così controllano tutti quelli che vanno in giro e che sono a rischio, no? Buongiorno, sono appena partito da casa per andare in azienda, un'oretta prima stamattina, perché essendo il titolare di una piccola azienda con quattro dipendenti al lavoro e due dipendenti che stanno facendo smart working, comunque bisogna igienizzare un po' i pavimenti e tutte le superfici, quindi abbiamo comprato i prodotti apposta e ce lo facciamo noi internamente. Bravi e buon lavoro a chi deve lavorare prima nel citare, non posso citare tutte le mattine tutte le categorie, però anche i bancari, per esempio. In tanti ci scrivono e ci dicono, insomma, ci siamo anche noi che dobbiamo andare a lavorare. E sì, tutti quelli che lavorano nel settore alimentare, come il signore che consegna il pane, ma anche quelli che sono nei supermercati, nei negozi. State tenendo vivo il paese in questo momento. E poi una piccola precisazione per i tanti che mi hanno scritto prima sul sindaco De Caro, il sindaco di Bari che va in giro per strada, o meglio per strada, nei parchi, a dire alla gente ragazzi, non dovete stare in giro, dovete stare in casa. Non ho ironizzato, mi sembra una mossa forte, una mossa efficace, no? E che dà il segnale di quello che si deve fare. Detto ciò, un minimo di sorriso ce lo ha strappato, ma è un sorriso benevolo, ok? Forse non mi sono spiegato bene. L'ho definito cinema, ma c'è un cinema buono e c'è un cinema cattivo, cioè non è un cinema per mettersi in mostra, è un cinema per dare un segnale. E quindi bene così il sindaco De Caro. E ce l'abbiamo sotto mano, Peter, che così facciamo riascoltare giusto un passaggino, 20 secondi se vi foste messi in ascolto solamente adesso, via. Sono il sindaco della città, te ne vai a casa adesso, capito? Sto andando a togliere anche la... Adesso te ne vai a casa, dai, a casa. A casa, dai. Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, scusa, se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo! Ok, a casa, adesso a casa, dai! È così, andiamo. È così. Il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, che decide in questo modo di dare l'esempio. Allora, siamo alla seconda parte di 24 mattino di questo mercoledì 18 marzo e la parte, come sapete, è dedicata alla rassegna stampa. Al microfono, come sempre, Simone Spezia. E prima di tutto i titoli, l'apertura dei quotidiani, dove quello più rilevante ci sembra oggi La Stampa, con il che ci dice che Conte sta studiando la chiusura ad oltranza e quindi oltre il 3 aprile. Il Corriere della Sera, la cui apertura è sul Viminale, troppi in giro, li puniremo. Appunto arriva l'ordine del Viminale e in Lombardia ci sono i controlli sulla rete dei telefonini. Divieti violati, pene più severe, anche il Messaggero fa questa scelta. La Repubblica apre con un colloquio con il Papa, con Papa Francesco. Non sprecate questi giorni difficili, dice. Il Sole 24 Ore sceglie naturalmente l'apertura economica con la mossa Fed e Trump, i mercati in ripresa, perché ieri c'è stata appunto una mossa della Federal Reserve su questo fronte e c'è stato un rimbalzo dei mercati, e dalle infrastrutture la fase 2 dell'Italia, il tutto affiancato da un editoriale del direttore Fabio Tamburini che parla di un piano Marshall come nel dopoguerra. Ci arriveremo più avanti nella parte della rassegna insieme a Paolo Mieli. Economia al collasso, SOS di Conte, il titolo del quotidiano nazionale. Il pioggia di soldi è il titolo del giornale sulle donazioni che stanno arrivando agli ospedali, a partire da quella di Silvio Berlusconi, che ha donato 10 milioni di euro per l'emergenza. Arrivano anche Agnelli, Lavazza, Barilla, Ruffini, e la corsa ad aiutare. Ritornano i confini ma non per i migranti, è il titolo della Verità. Il Nord si arrangia da solo, quello di Libero. L'assedio è quello del Manifesto, con i nuovi contagi e la curva epidemica che cresce ma non accelera. Avvenire, che ci parla delle terapie intensive al limite e in campo alpini e privati anche in questo caso. E il Fatto Quotidiano, che decide invece di titolare su i 249 dottori malati immaginari. La storia è la storia dalla quale ho intenzione di partire, ed è una storia che, se veramente è come la racconta il direttore delle emergenze del Cardarelli, è una storia che grida vendetta. La racconta Antonello Caporale. E siamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano, e quindi iniziamo da qua, iniziamo da qualcosa di laterale, come sempre. C'è sempre un lato B, e il lato B della sanità pubblica, nei giorni nei quali il racconto degli ospedali diviene addirittura epico, medici e infermieri si trasformano in patrioti, è stampato in una breve nota di Ciro Mauro, direttore del Dipartimento Emergenze del Cardarelli, il più grande nosocomio di Napoli, l'eccellenza del sud. 249 operatori sanitari si trovano in malattia, non già come purtroppo succede in queste terribili giornate per chi è infettati dal Covid-19. La malattia, in questo caso, ha preceduto l'infezione e perciò assomiglia a una furbizia, allinea la paura e la converte in diserzione. Così scrive Mauro sui social. Penso a tutti gli operatori del Cardarelli che sono al loro posto, e penso anche a tutti quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo, lasciando i colleghi da soli a lavorare. Non abbiamo rancore contro questi, solo commiserazione. Il Cardarelli andrà lo stesso avanti, conseguendo come al solito i migliori risultati della sanità campana. Questo è il racconto che arriva da Antonello Caporale a pagina 3 del Fatto Quotidiano. I furbetti in camice, dunque, ospedale Cardarelli, 249 che sono in malattia. E insomma, insieme a questi, il Fatto Quotidiano ci segnala anche una storia bella, Furbi da una parte, eroi dall'altra. Franco Faella, 74 anni, uno degli infettivologi più esperti in Italia, ha lasciato la pensione ed è tornato a fare quello che sa fare. Ha accettato l'invito della ASL di prendersi cura della realizzazione del secondo presidio Covid napoletano, l'ospedale Loreto Mare. 74 anni. È bene ripeterlo. E dunque, da una parte i presunti furbetti, poi tutto andrà accertato naturalmente, e dall'altra parte invece un uomo di 74 anni che decide di tornare al lavoro per aiutare il paese e la sua città in questo momento. Ieri ci siamo occupati un po' delle tensioni psicologiche che derivano, no, da queste convivenze forzate, un po' sui giornali inizia a circolare questa cosa. Spesso ne abbiamo parlato anche, no, con nella trasmissione di Nicoletta Carbone, appunto dell'aspetto psicologico di Covid-19. Ora, senza necessariamente correlarlo a questo, ma forse correlandolo a quella che è un'incultura da una parte e una convivenza forzata dall'altra, la Stampa pagina 13 ci porta sui centri antiviolenza. È Flavia Amabile che ne scrive. Sono in allarme, più abusi ma poche denunce, calano le richieste di aiuto delle donne maltrattate. Restate a casa, lì siete al sicuro, ripete da settimane il governo nel tentativo di fermare il coronavirus. È vero, ma non del tutto. Per alcune donne significa convivere in modo totale con un marito o un compagno violento. Significa subire minacce, insulti, violenze, senza più avere nemmeno la possibilità di allontanarsi per lavoro o anche solo per andare a prendere i figli a scuola. È l'allarme lanciato da dire. La rete di oltre 80 centri antiviolenza presenti in tutta Italia nasce da un'anomalia apparentemente contraddittoria. Le richieste di aiuto delle donne sono in forte calo. Stanno diminuendo le violenze? Secondo le responsabili dei centri sta accadendo l'opposto. Mariangela Zani del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, da circa un mese zona rossa con movimenti quasi annullati. Gestiamo 5 centri, abbiamo dovuto limitare le attività dal 23 febbraio, abbiamo lasciati sempre aperti i canali telefonici, drastico calo delle chiamate, ora 3 richieste in 2 settimane. Situazione molto simile si sta verificando a Bergamo, ma appunto a queste chiamate, probabilmente a questo calo di chiamate probabilmente corrisponde, dicono i centri antiviolenza, un aumento delle violenze. Veniamo a qualche nota positiva prima di andare in pausa. Innanzitutto quella che è l'apertura del quotidiano nazionale. Abbiamo parlato nei giorni scorsi lungamente, anche qua lo avete sentito anche nella trasmissione di Nicoletta Carbone, ma insomma ce ne siamo occupati anche da queste parti e torneremo a farlo. Il farmaco contro l'artrite reumatoide, ve l'abbiamo raccontato ampiamente, era un po' su tutti i giornali, il fatto che è stata sperimentata a Napoli e non solo a Napoli ed ha dato in alcuni tipi di pazienti affetti da Covid-19, dal coronavirus, ha dato dei risultati positivi. Che effetto ha? Di fatto un effetto disinfiammante nella sostanza e permette in molti casi di estubare i pazienti. E dunque è l'apertura del quotidiano nazionale. Perché? Perché oggi parte la sperimentazione in tutta Italia, si sperimenterà su oltre 300 pazienti e lo racconta Alessandro Malpelo da Roma a pagina 5, super farmaco ai contagiati, da oggi il test. È partita la corsa a produrre medicinali e vaccini contro il coronavirus. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato semaforo verde all'impiego di protocolli sperimentali che siano in grado di produrre risultati documentati, lo ha annunciato il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini, confermando la scelta delle autorità sanitarie di testare in Italia la validità di terapie che potrebbero alleviare le sofferenze. E dunque si parla esattamente di questo, dello studio promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli con l'Università di Modena, che punta a produrre dati scientificamente validi sul trattamento già concesso per uso compassionevole, che è un po' la formula con la quale appunto si è arrivati a sperimentare questo farmaco. Dunque verrà sperimentato come ne verranno sperimentati altri, lo racconta bene Margherita De Bac a pagina 5 sul Corriere della Sera. L'Italia, prima nell'Unione Europea e nel mondo occidentale, insomma, inizia il test sui farmaci. Le cure si sono basate finora sull'esperienza dei ricercatori cinesi e sulle pubblicazioni scientifiche comparse sulle riviste internazionali, sempre firmate da autori della Repubblica Popolare. Servono linee guida più specifiche e soprattutto uniformi su tutto il territorio nazionale. Ed ecco il via dunque a studi sperimentali per dare risposte certe sulla sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia delle diverse molecole. Spesso, come ben sapete, il problema di questi studi è che prima di essere effettuati devono sottostare a una serie di procedure anche burocratiche perché parta la sperimentazione. Ebbene, quello che succederà in questo caso è che queste procedure burocratiche verranno sostanzialmente accelerate. In sostanza è stato deciso di centralizzare i comitati etici, quelli che all'interno degli ospedali devono esprimere uno dei tanti pareri per autorizzare il test. Ce ne sarà uno solo, quello dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, e da quel punto partiranno le sperimentazioni. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Mattino. Io sto andando a lavorare e lavoro in uno stabilimento metalmeccanico e volevo solo dire che mia figlia studia in Inghilterra e là hanno una concezione a mio avviso folle. Hanno detto che anche le persone normali, alcuni dicono che è giusto così, che devono, che lasciano pure morire i vecchi, ecco, praticamente loro ragionano così, che siamo noi che siamo stupidi. Buongiorno Simone, ieri ho fatto la spesa, una bella spesa, e il mio amico che sta alla cassa mi dice che ci sono persone che pur di uscire con la scusa della spesa ci vanno al supermercato anche 3 volte al giorno. Ma cavolo, possibile che non riusciamo a capire niente in questo paese? Ciao, buona giornata. Fate le scorte, ma come come riusciamo a dirlo? Come riusciamo a dirlo? Il sindaco d'Italia, quello siciliano, Peter Bescapè, ce l'hai al volo, che così lo facciamo risentire solo i primi 30 secondi, Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Moltissimi lo scrivono su Facebook, nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Capito come bisogna fare? Capito? E ai tanti che chiedono sul nuovo modulo di autocertificazione, quello nel quale bisogna dire che non si è affetti da Covid-19. Sì, confesso che ho qualche perplessità anch'io, perché se uno è asintomatico, autocertifica e poi si scopre che è affetto da Covid-19, insomma, te la rischi. Vedremo di avere, speriamo di avere chiarimenti dal Viminale, al Ministero dell'Interno, quanto prima. Paolo Mieli, buongiorno direttore, ciao. Buongiorno, innanzitutto un chiarimento te lo do io, perché vai. È stato spiegato, cioè tu non devi sapere di avere già il coronavirus, è ovvio che se non lo sai, perché si sono dati molti casi in cui persone asintomatiche ma con comprovato coronavirus escono, sia pure per qualche minuto, per andare a comprare sigarette, come diceva il sindaco che hai mandato in onda. È sperabile che con la polmonite da Covid-19 non smettano di fumare, però insomma sì, il concetto è chiaro. E quindi devi non saperlo, è ovvio che se tu non lo sai e qualche giorno dopo lo saprai, non ti possono mettere in prigione oppure mettere sotto processo. Ma già adesso dire mettere sotto processo, i tribunali sono chiusi, le prigioni, si pensa solo a come svuotarle, a fare degli indulti mascherati per mettere in libertà più gente possibile, muniti ovviamente di bracciale elettronico, ma anche lì bracciali elettronici non ci sono, insomma vengono al pettine molti nodi dei tagli fatti negli ultimi anni, cioè i tagli sono stati fatti in maniera che oggi ci appare sconsiderata, però vogliamo ricordare anche per senso di responsabilità che quando furono fatti dal 2011 ad oggi alla gente sembravano troppo pochi, anche perché abbiamo un problema di buco nei bilanci dello Stato, insomma le questioni sono davvero molto complesse, non c'è un colpevole e bisogna mantenere la calma, ragionare e ragionare ancora prima di prendersi con questo o con quello, mettiamo le basi oggi di una esplosione che può esserci domani, ma un domani non fatto di mesi ma fatto di giorni, perché qui come oggi i giornali sono molto allarmati, diciamo subito per chiarezza, perché ieri tutti avevano detto timidi segnali di speranza e invece il giorno dopo si è contraddetti anche questi manifestazioni di ottimismo e timidi segnali di speranza, bisognerebbe smetterla, cioè la verità, quando io parlo in privato con questi virologi, la verità è che i bilanci bisognerebbe farne non giorno per giorno ma una volta alla settimana, in modo oculato, qui c'è un modo ansiogeno di dare i risultati, però alimentare speranze, guarda, però si è scelta la via della trasparenza, cosa che hanno fatto tutto sommato dal punto di vista del numero dei contagi anche in Cina, questa via bisogna seguire, non è che puoi nascondere i numeri, d'accordo, ma la via della trasparenza non va commentata, cioè tu ogni giorno dai i risultati, ti astieni da qualsiasi commento, non c'è bisogno di fare conferenze stampa di un'ora, ne fai una alla settimana e in quella conferenza della settimana fai dei ragionamenti che siano un po' più motivati. Guarda, vedrai che come tante nostre previsioni, anche questa troverà fatto la verifica presto, faremo così. Può darsi, può darsi. Allora Paolo, però prima ancora di andare a tutte le cronache dal coronavirus, io vorrei portarti, come spesso facciamo in questo spazio, quando abbiamo le notizie che arrivano dalla politica americana in arrivo nella notte, andare a commentarle, perché insomma Joe Biden, contro anche le previsioni che avevamo fatto qua, bisogna dircelo. Certo, perché noi dobbiamo parlare delle previsioni sbagliate anche le nostre. Anche nel nostro caso. Ma forse è il clima mondiale che ha cambiato questa situazione. Può darsi. Comunque, per stare alla notizia con gli ascoltatori, vince in Florida e Illinois e quindi di fatto si assicura la candidatura alla presidenza per i democratici. Sarà lui l'anti-Trump nelle elezioni di novembre. Esatto, e questi dati ancora sui giornali non ci sono, perché come tu hai detto giustamente sono dati venuti fuori nella notte, e qua e là non si è votato. Già negli Stati Uniti si prende atto che l'emergenza Covid-19 sta riguardando anche loro, e mentre accade quel che accade e che tu hai appena citato nelle elezioni primarie americane, l'America è in preda a un delirio, perché finalmente se ne sono accorti e corrono, come tutti i giornali raccontano, prendo un articolo di Giuseppe Scarpa sul Messaggero, corrono a comprare, scappano, fuggono. E la cosa che è curiosa, che notano quasi tutti i giornali, è che comprano soprattutto carta igienica e armi. Sì. E tutti riflettono su questo comprare carta igienica, cioè comprare tutto, ovviamente, ma i record sono carta igienica e armi, che i social si sfogano, prendono in giro, ma vorrà dire qualcosa. Carta igienica vuol dire che pensano di rimanere chiusi in casa in una seconda fase per un tempo molto lungo, e armi che pensa che ci potranno essere mosse, assalti, che in una seconda fase di questa emergenza possa avvenire qualcosa di drammatico, come del resto si è visto in tutti i film di fantascienza che hanno trattato argomenti come questo, simili a questo. Sì. Dimmi. Ti volevo portare adesso dagli Stati Uniti, no, che fanno scorte, alla Francia che fa scorte. Insomma, noi stiamo vedendo in Francia le stesse scene alle quali abbiamo assistito in Italia nella famosa notte del decreto, della chiusura della Lombardia, gli assalti ai supermercati da una parte e la fuga verso i luoghi d'origine dall'altra. Vero, verissimo, visto che abbiamo ricordato una nostra previsione che è sbagliata. Ricordiamo anche una nostra previsione giusta, quella di lunedì scorso, quando la Francia se n'è uscita allegra con le rive della Senna festeggianti, e il giorno prima si era votato, sono passate 24 ore e la Francia ha dovuto cambiare indirizzo, molti si rifugiano nelle case di campagna, e molti giornali analizzano questa tendenza a rifugiarsi nelle case di campagna, che è una cosa... A dire il vero è dal Medioevo che in occasione delle pestilenze ci si rifugia fuori dalle città, spesso con successo, quindi questa è una cosa che accade in Francia, ma visto che parliamo della Francia, di questo risveglio violentissimo in Francia, fammi citare un editoriale di Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore, molto molto interessante, perché prende lo spunto dal fatto che ieri il ministro francese delle finanze Bruno Le Maire è intervenuto lanciando un segnale forte e chiaro in difesa delle grandi aziende del paese, perché c'è un problema che ovviamente il Sole 24 Ore e il suo direttore mettono in evidenza, che le forti aziende, guardate che non è chiaro che mentre tutti dobbiamo rimanere più a casa le aziende potranno continuare a produrre come producono oggi. È un tema fortissimo e va posto fin da adesso, nel senso che chi le produrrà quei beni che vengono messi nei supermercati dopo essere trasportati da trasportatori che andranno per autostrade deserte dove non c'è più a volte neanche distributore di benzina, o comunque non è aperto il caffè vicino vicino al distributore di benzina. Questo editoriale di Fabio Tamburini è da leggere, meditare sì. e meditare ancora. Sì. Il pezzo poi di cronaca invece su tutta questa questione di Le Maire, sull'ipotesi che la Francia proceda ad alcune nazionalizzazioni di aziende anche per evitare rischi scalata, lo troviamo sempre a pagina 5 dove prosegue l'editoriale di Tamburini ed è firmato da Riccardo Sorrentino, uno scudo su Corporate France, pronti alle nazionalizzazioni. Traffico. Mattino. Ed eccoci, partirei per questa seconda parte, Paolo, da Repubblica, che intervista il Papa con Paolo Rodari, che si fa una chiacchierata con Papa Francesco proprio sull'emergenza. Il titolo è "Non sprecate questi giorni difficili". Dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose verso chi ci sta vicino, un piatto caldo, una carezza, un abbraccio, che dici? Sì, abbracci meno possibile, carezze meno possibili. Il Papa, insomma, una bellissima intervista, interessantissima questa di questa volta è Paolo Rodari, non è Eugenio Scalfari che è stato il tradizionale interlocutore di Papa Francesco. E la cosa curiosa è che il Papa dice che lui prende spunto per questa riflessione da quello che ha scritto Fabio Fazio, cioè lui ha letto con attenzione un intervento sempre su Repubblica di Fabio Fazio e questo lo ha fatto riflettere. Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia, fermala con la tua mano, gli ha detto, ringrazio chi si spende per salvare gli altri, chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari, la consolazione sia impegno di tutti. Ci avvicino sempre su Repubblica un appello di Mattarella, restiamo uniti anche nella sofferenza, ma io mi sono domandato come mai questi appelli, e la risposta la trovo sulle pagine del Corriere della Sera, dove vedo punizioni più severe per chi continua sì. a uscire. La verità, ci sono foto della metropolitana di Milano, Milano è la città, è come One Milano, e veramente sì. oggi ci sono anche degli articoli scientifici che spiegano che hanno lo stesso clima, lo stesso inquinamento, vabbè, insomma, e a Milano c'è la metropolitana zeppa, la gente stipata sì. nella metropolitana. Ora ricordate l'immagine di Wuhan già a gennaio, la città era deserta. Qui persino nella città che produce il maggior numero dei morti, tant'è che in Lombardia si controllano, c'è un articolo di Cesare Giusti, sì. sempre su Corriere della Sera, i movimenti via cellulare, appena il 60% resta a casa, significa che il 40% sì. affolla i supermercati, sì. c'è gente che ci va due, tre volte al giorno. Che è come raccontavamo prima, è vero anche che in realtà noi non sappiamo che tipo di spostamenti siano questi spostamenti, i dati li ha forniti l'assessore Gallera, giusto per chiarirlo agli ascoltatori, qua non è che si è entrati nel cellulare di ciascuno, semplicemente si sono tracciati dei movimenti generali anonimizzati da quel che ne sappiamo. Almeno e speriamo che sia così, e però insomma sappiamo che il 40% si è mosso di casa in questi giorni, che è secondo quello che dice Gallera un po' tanto, però insomma, bisogna vedere anche la qualità di questi dati, perché la gente si è mossa, no? Sì, è vero, bisogna vedere la qualità degli spostamenti, però se si dice che l'unico modo di isolare che tutti rimangano, tutti, ma proprio tutti, tranne chi ha comprovatissime esigenze di sua vita, rimangano a casa, il prezzo è troppo alto, vuol dire che la contraddizione fra l'impulso a rimanere a casa e il dovere di uscire, mettiamola così, che tutti quelli che escano lo facciano per dovere, è una contraddizione che non ti porta fuori dalla malattia, la può far durare non giorni, ma settimane, mesi, e quindi qualcosa bisognerà sì. fare in questo senso. Non a caso, secondo la stampa, ed è l'apertura della stampa di oggi, Conte starebbe studiando la chiusura ad oltranza. Lo stesso premier si è rivolto all'Unione Europea chiedendo un patto contro il contagio dal punto di vista economico, chiedendo il finanziamento di un fondo di garanzia per proteggere i singoli stati, però insomma l'idea è più o meno questa, che si studi una chiusura ad oltranza ben oltre il 3 aprile. Devo dire che Paolo, era sospettabile che si sarebbe andati oltre il 3 aprile, cioè era abbastanza chiaro a dire il vero. Sì, infatti io spero che la prossima il prossimo decreto sia a tempo indeterminato, cioè sia un decreto che lasci pensare, perché anche questo va detto. Ottimo, manifestazioni di ottimismo, suonare alle finestre, cantare, però bisogna far capire a noi stessi che stiamo parlando che questa sarà una crisi lunga e che non è che al primo timido segnale di risveglio, perché diminuiscono i contagiati o diminuiscono i morti, anzi non è che diminuiscono, magari diminuisce l'incremento di contagiati e l'incremento di morti, allora ci si rilassa, si va al sole, sta arrivando la bella stagione, quindi si comincia ad andare a passeggiare nei parchi. No, qui è un momento ancora gravissimo, i morti e i contagiati sono in aumento vistoso. Per dire delle cifre, in Wuhan, nella regione di Wuhan, abbiamo fatto, sono stati fatti 80.000 contagiati, poco più di 80.000 contagiati e 3.000 morti. Qui da noi i contagiati sono 25.000 mal contati e i morti sono già 2.500, insomma, e sta salendo, sì. In Cina è bloccato questa crescita già da 3 settimane e da noi sta continuando a salire. Quindi secondo me è il momento, vedrai che ci dobbiamo lanciare in previsione, sì. Vedrai che ci saranno ulteriori misure di contenimento. Già ieri la carta per circolare è cambiata, come tu hai già ricordato, e bisogna avere una carta nuova che ci si può stampare facilmente in tutti i siti. Sì, voglio ricordare gli ascoltatori, qualche ascoltatore dice ma come mai la metropolitana di Milano è piena, ci sono le foto naturalmente, che 2 settimane fa era vuota, però 2 settimane fa le corse erano regolari. Cosa è successo? Che sono state ridotte ai 3/4 le corse della metropolitana e quindi in quelle poche corse della metropolitana ci si affolla un sacco di gente. Dunque l'azienda dei trasporti milanesi sta pensando di tornare indietro e di ripristinare alcune corse esattamente per questo motivo. Paolo, mi ha colpito insomma l'apertura del giornale, no? su questa pioggia di soldi da Berlusconi, Agnelli, Lavazza, Barilla, Ruffini, insomma stanno donando tutti un po' per la protezione civile, un po' per gli ospedali, no? Un po' per comprare respiratori, mascherine, non male questa gara di solidarietà, Non male e soprattutto benvenuta, lo dico da milanese ma anche da italiano, benvenuta questa gara di solidarietà, soprattutto la parte indirizzata alla Lombardia, perché la Lombardia, come tutti abbiamo capito, è al limite del collasso, si fanno nuovi ospedali, secondo me il comportamento delle autorità politiche della Lombardia è stato un comportamento all'altezza della situazione, hanno avvertito il problema per tempo. Un giorno, quando rivedremo il film di quello che è accaduto, anche quell'atto così deriso di Attilio Fontana di mettersi la mascherina era un po' goffo, devo dirlo anch'io, sì. Ma era fatto per tempo, giusto, era sacrosanto, avrebbe dovuto essere lodato e invece fu schernito. E anche la prova di costruzione di nuovi ospedali, l'impegno con Bertolaso, insomma sono tutte cose all'altezza della situazione. Le donazioni che tu citavi e che vengono messe in risalto anche da altri giornali, non solo dal giornale, sono benvenute e altre ce ne vorranno. La verità, i ricchi dovranno tirare fuori soldi perché qua servono. Bilancio dello Stato non servono. Ma il bilancio dello Stato non basta. Allora, le manovre dobbiamo chiudere. Grazie a Paolo Mieli, lo ritroviamo venerdì come sempre GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo con Luca Zaia, con Antonio Misiani, viceministro all'economia, con Carlo Calenda dopo.